Tutti convocati di Giovanni Capuano e Pierluigi Pardo. Franco Piantanide, autore di questa puntata e di questa trasmissione Robby Scaltritti dietro il vetro. Beh, buon 2014 a tutti. 2014 che è nato da poche ore e dal punto di vista dello sport è uno di quegli anni fortunati. È un anno pari intanto, quindi è anno di grandissime manifestazioni ed è un anno che soprattutto nella prima metà, già a partire dal mese di febbraio con le Olimpiadi invernali di Sochi e poi tra giugno e luglio con l'appuntamento del Mondiale di calcio in Brasile, ci regalerà tante notizie e tante emozioni. E allora noi abbiamo deciso di dedicare questa nostra prima fatica di tutti i convocati del 2014 proprio a raccontare lo sport e il calcio che verranno nei prossimi mesi, partendo dal Mondiale del Brasile. Saluto Emiliano Guanella, corrispondente della Sud America di Sky Sport. Ciao Emiliano. Ciao, buongiorno. Mancano sei mesi, a che punto siamo in Brasile? Mancano sei mesi e siamo a un conto da rovescio, che in realtà non è nemmeno un conto da rovescio, nel senso che ci sono ancora molti problemi, sia negli stadi, nelle strutture, nelle infrastrutture. Probabilmente molti di questi problemi non saranno risolti, si cercherà di fare il più possibile, diciamo, e soprattutto in Brasile si dice sempre poi comunque l'entusiasmo di quella che sarà sicuramente una gran festa e un mondiale assolutamente fuori dal comune farà sì che si potrà superare le difficoltà oggettive di un paese molto grande, tanti sedi, differenti città, problemi anche di comunicazione, di trasporti, rete aeroportuale, vicicende. Insomma, se parliamo da un punto di vista freddo e della logistica delle strutture, direi che manca ancora molto da fare e molto non sarà risolto. Se parliamo dell'entusiasmo e di che mondiale sarà un mondiale sicuramente molto bello e vincente. Sì, la sensazione vista dall'Europa è che più che un conto alla rovescia sia una corsa contro il tempo, e non solo, anche per le immagini che abbiamo visto nelle ultime settimane, immagini anche drammatiche che ci hanno portato dentro i cantieri per questi stadi che stanno costando uno sproposito. Torniamo indietro di qualche mese, all'estate scorsa, con la Confederations abbiamo scoperto in tanti, solo in Europa, un Brasile, un tessuto sociale contrario a queste grandi spese, a queste spese faraoniche per ospitare queste manifestazioni di calcio. È finito tutto o è soltanto in una fase di sonno e a giugno riscopriremo di nuovo che esiste questa protesta trasversale? No, non è assolutamente finito, anzi direi non è nemmeno in sonno, semplicemente ci sono ancora molte proteste con molta meno gente e più settoriali, ossia per esempio a Rio de Janeiro, la città dove mi trovo, ci sono quasi tutte le settimane delle manifestazioni su cose puntuali, i professori che si lamentano per i bassi stipendi, che è una verità della rete educazione pubblica, ma poi anche per le rimozioni che sono state molto forti, insomma sfrattati, gli sfrattati del mondiale vengono chiamati, quindi favelas che vengono ristrutturate, ma poi molto spesso chi ci abita deve andare a vivere molto distante, quindi crea molti, molti problemi. Ecco, ci sono molte, molte proteste e c'è soprattutto un senso di scontentezza generale, perché il Brasile è un paese molto grande, la settima economia del mondo, è un paese che è cresciuto molto a livello macroeconomico, ha avuto degli anni di crescita molto forte e dove c'è stata una forte politica anche di riduzione della povertà, con assegni di assistenzialismo sociale molto importante, soprattutto 5-6 anni fa, ma che a lungo andare non ci sono stati uguali investimenti su quello che vuole far stesso, sostanzialmente sulla rete dei trasporti nelle grandi città, che è molto deficitario, la gente impiega 2 ore per andare al lavoro e costano anche molto tanto. Il Brasile è un paese caro per i brasiliani e caro, se ne renderanno conto anche i tifosi italiani che potranno venire in Brasile ai mondiali. Stesso discorso appunto per l'educazione pubblica, molto scarsa, mentre la privata è molto cara, l'educazione. Sì, discorso. È un paese, mi pare di capire, dicono, insomma, con molte contraddizioni. Il mondiale sicuramente sì, se pensiamo alla passione che abbiamo per il calcio, ma pensare a stadi che costano centinaia di migliaia di dollari, milioni di dollari, in città dove manca un po' di tutto, i casi sono emblematici, lo stadio di Salvador è immerso tra delle favelas, lo stadio di Manaus che è una cattedrale nel deserto, perché a Manaus non ci sono squadre di calcio rilevanti, non c'è mai stata una tradizione calcistica, così anche a Brasilia o a Cuiabá. L'impressione è che questo mondiale sarà una festa, ma è già stata ed è già una festa per chi ci ha guadagnato molto, leggi le imprese che hanno costruito gli stadi. stadi e le leggi politiche che hanno sicuramente intascato qualcosa. Sì, sono storie che purtroppo si ripetono. Queste grandi opere pubbliche. Si ripetono un po' sempre accompagnando queste grandi manifestazioni, poi ne parleremo dopo le 14.30 perché cercheremo anche di capire che cosa sta accadendo a Sochi, dove a febbraio ci saranno invece i giochi invernali, ma anche lì ci sono molte polemiche. Hai dunque l'impressione che ci possa essere qualche problema in prospettiva anche dal punto di vista dell'ordine pubblico? Addirittura nello scorso mese di giugno si era parlato di cancellare, spostare alcune partite della Confederations. Immaginiamoci cosa può essere la ribalta di un mondiale. Sì, sicuramente ci saranno delle manifestazioni, soprattutto nella prima fase, poi molto dipenderà dall'esito della Seleção. Cioè, se la nazionale brasiliana andrà avanti, l'entusiasmo intorno alla nazionale brasiliana e alla possibilità di vincere per la prima volta un mondiale in casa, tutti quanti sappiamo come andò nell'unico mondiale che organizzò Brasile. Potrebbe fare da collante. Esattamente. Se il Brasile, malagrottamente per i brasiliani, dovesse venire eliminato molto prima del previsto e si pensa già agli ottavi di finale, dove il Brasile potrebbe incrociarsi con la Spagna, campione del mondo, o con l'Olanda, che fu la squadra che lo eliminò nel mondiale in Sudafrica, insomma lì questa scontentezza di fondo più la tragedia collettiva in un paese come il Brasile, venire eliminati anzitempo da un mondiale, potrebbe appunto fare da collante e aumentare questo. C'è da dire che la FIFA e il governo federale brasiliano hanno un po' imparato la lezione in termini di ordine pubblico, e quindi se nella Confederation abbiamo visto noi detti lavori che eravamo negli stati già degli stati blindati, saranno ancora molto di più blindati. Lo si è visto nel sorteggio del mondiale a Costa di Sao Ipe, ci hanno in qualche modo obbligati ad andare in un posto che era un non posto, cioè un grosso complesso turistico in mezzo a nulla, davanti avevamo il mare, dietro nulla, perché era un posto che si poteva isolare completamente, quindi impedire qualsiasi tipo di manifestazione. Sì, è un po' una tristezza. Molta attenzione da parte del governo su questo. Perdonami Emiliano, è un po' una tristezza pensare di organizzare un mondiale, tra l'altro in Brasile, che è la patria del calcio e della gioia, o almeno così viene tradizionalmente disegnata, come se fosse un qualsiasi G8, cioè organizzato in mezzo alle montagne per evitare cortei e manifestazioni. Mi pare di aver capito che non esiste un piano B se nei prossimi 6 mesi dovessero verificarsi ancora problemi, sto parlando di infrastrutture, di stadi, di incidenti. Lo abbiamo scoperto quando abbiamo assistito al crollo di una parte dello stadio del Corinthians, ora ci sono stati incidenti nello stadio di Manaus che ospiterà anche l'Italia. Mi pare di aver capito che non esiste un piano B, né per la FIFA né per il comitato organizzatore. No, assolutamente, tutte le 12 serie sono confermate, alcune arriveranno, gli stadi per esempio a Cuiabá soprattutto, a Coritiba e a Porto Alegre in parte, e poi lo stadio di San Paolo appunto, che è crollato parte del tetto, e quindi i lavori sicuramente arriveranno, proprio saranno ritardati, arriveranno un po' con l'acqua alla gola, però non esiste un piano B perché gli investimenti, le infrastrutture, le opere pubbliche sono talmente tante che non possono spostare o annullare per esempio una sede, e quindi i problemi saranno più che altro logistici, perché sì, quello l'ha scoperto anche Prandelli nello scorso giugno, e in proiezione l'ha scoperto anche per il girone poi che ospiterà l'Italia. Esattamente, cioè i gironi sono stati pensati per cui ogni girone ha partite in almeno 6 città. Noi pensiamo, bisogna immaginare il Brasile è un paese grande quanto una volta e mezzo l'Europa, più o meno. Quindi la distanza che si percorre da l'Italia, per esempio, ha scelto, secondo me è una scelta non giustissima in termini logistici, ha confermato il ritiro a Mangaratiba, qui a 100 km da Rio. Ecco, Rio si trova a 3 ore e mezza, 4 ore di volo da Manaus, 2 ore da Recife, 2 ore da Natal, 2 ore e mezzo da Natal, dove l'Italia giocherà. Adesso per le squadre non ci saranno problemi perché avranno dei charter privati ovviamente che li porteranno nelle varie città. In alcuni gruppi invece gli spostamenti fra una città e l'altra non esistono le rotte per esempio da Cuiabá a Brasilia o a Coritiba, e quindi o le compagnie aeree brasiliane, che tra l'altro hanno già triplicato i prezzi normali, quindi sarà molto più caro anche per i brasiliani, che saranno l'80% dei tifosi che viaggeranno in questo mondiale viaggiare, ecco, non hanno programmato delle rotte alternative e sono distanze talmente grandi, stiamo parlando di 800, 1000, 2000, 3000 chilometri che non sono ovviamente percorribili in un giorno in macchina, e quindi necessariamente bisogna fare delle scelte. Bisogna anche mettere in conto che Tradizionalmente in Brasile, quando c'è Natale, Réveillon, come si chiama qua, cioè Capodanno, il Carnevale, che sono i momenti di maggior traffico aereo, e il sistema aeroportuale entra in tilt. Il Brasile è il secondo paese al mondo per traffico aeroportuale e gli aeroporti sono molto, molto antiquati, sono molto, non sono adatti a sopportare questo traffico molto forte, quindi si potrà immaginare anche un caos aeroportuale. Insomma, ci sono delle cose che già si sa che non andranno benissimo. Sì, diciamo che se qualcuno ha la tentazione, Emiliano, ha la tentazione, oltre che i soldi, di venire in Brasile per seguire l'Italia, probabilmente farà bene a ripensarci. Noi proviamo a dare anche un termine, lo abbiamo fatto con Piera anche nelle scorse settimane. L'Italia sta in ritiro a Roma e giocherà partite a Mosca, che è un controsenso forse anche dal punto di vista logistico per la squadra. Non parliamo poi per chi dovrà spostarsi, ma lo hai ben spiegato tu. Il clima sarà un problema o no? Perché in Italia, in Europa, leggendo di gironi con sedi nella foresta amazzonica, ovviamente è venuto immediato il pensiero che possa essere un problema, ma visto da chi in Brasile ci vive, sarà davvero così difficile dal punto di vista climatico affrontare questo mondiale? Io credo che sarà difficile se hai dei grossi sbalzi di temperatura. Per esempio, se fai come la Spagna, un ritiro a Coritiba e poi vai a giocare a Manaus, non è il caso della Spagna, però ovviamente bisogna scegliere anche bene il ritiro. Insomma, se si gioca nella parte meridionale del paese, cioè Porto Alegre, Coritiba, bisogna pensare che è inverno, un inverno mite, ma comunque un inverno nell'ottica dei 10-15 gradi, 10 gradi di notte, 15-20 gradi di giorno. Quindi non sicuramente una temperatura che per noi forse è primaverile, ma per un brasiliano è invernale. Manaus, il grande problema più che altro è l'umidità molto forte. Fra l'altro la partita Manaus è stata anche anticipata per esigenze televisive, ovviamente, perché Italia e Inghilterra non potevano andare quando erano le 2 o l'1 nei rispettivi paesi, quindi sono state anticipate alle 6. Ecco, vi assicuro che alle 6 del pomeriggio a Manaus l'umidità è molto forte e quello sarà un problema. Siamo fortunati, fra virgolette, pensando agli azzurri, che giochiamo a Manaus contro l'Inghilterra, quindi in qualche modo soffriremo nella stessa maniera. Insomma, sarebbe stato più drammatico forse giocare contro il Costa Rica a Manaus, perché forse loro sono più abituati. Io credo però che poi molto dipenderà dal clima mentale e dalla predisposizione a qualche sacrificio che dovranno compiere i nostri calciatori, i nostri atleti, per affrontare un mondiale logisticamente più complicato di un mondiale in Germania, per esempio. Per chiudere, Emiliano, è un mondiale che lascerà in eredità qualcosa. Lascerà in eredità qualcosa al calcio brasiliano, intanto magari aiutandolo a svilupparsi e tornare competitivo a livello mondiale, e sto parlando di club ovviamente, e poi se lascerà qualcosa sul territorio, visto che, e ce lo hai raccontato, i sacrifici sono stati ingenti nelle città che ospiteranno le partite. Allora, il calcio brasiliano è una situazione assolutamente paradossale, perché si è concluso appunto a dicembre il campionato brasiliano, ci sono state nelle ultime 7-8 giornate del campionato una protesta molto forte da parte di tutti i calciatori della Serie A brasiliana, una protesta che si è chiamata Buon Senso, proprio un movimento che si è chiamato Buon Senso Football Club, cioè il buon senso, per chiedere cose che sembrano un po' essenziali, cioè la possibilità di avere 30 giorni di vacanze che non hanno, la possibilità di fare un ritiro per stagione più lungo, perché con la quantità di impegni che ci sono fra i campionati statali, le coppe, la Coppa del Brasile, il campionato nazionale, le coppe sudamericane, praticamente non si fermano mai e hanno un ritiro fanno un ritiro per stagione di 10 giorni e quindi poi già a metà stagione le squadre sono decimate dagli infortuni. Il calcio brasiliano è un calcio che allontana gli spettatori dagli stadi, perché il livello è sempre più scadente, è tirato su a volte da grandi campioni che tornano o che vengono a giocare in Brasile, per esempio il caso di Seedorf col Botafogo la stagione appena trascorsa. Dal punto di vista invece, quindi, ci si augura che forse ci sia un po' più di professionalismo nel calcio brasiliano, non tanto nei calciatori che ce la mettono tutta, ma nei dirigenti. Sì, nell'organizzazione, in tutto ciò che c'è intorno, ma in un flash, perché poi siamo al traffico e ti saluto, lascerà questa eredità il mondiale o, come spesso è capitato in passato, il mondiale passa, lascia il guadagno a chi deve guadagnare e poi non rende nulla come eredità? Bisogna vedere, nelle 11 città qualcosa rimarrà, forse nelle città più periferiche come Manaus, poco, appunto perché mi ha detto gli stessi stadio, uno stadio Manaus servirà ben poco, anzi si sta pensando che cosa si farà con quello stadio. Addirittura si era detto facciamo un carcere, quello stadio è un po' paradossale. A Rio de Janeiro la questione è diversa, perché appena finisce il mondiale già si pensa alle Olimpiadi nel 2016, la città è in continua trasformazione, cose positive sicuramente ci sono, come più linee di metropolitane e via dicendo, però anche molti sconvolgimenti. Gli abitanti di Rio de Janeiro, vi assicuro, stanno soffrendo molto, una città che è un cantiere a cielo aperto, perché ovunque si vada si sta costruendo qualcosa in vista di mondiale e Olimpiadi. Ci sarà molto da parlarne, credo, per i prossimi 2 anni. Grazie Emiliano Guanella. Grazie a voi. Insomma, se avete capito, non esiste un piano B a 6 mesi dal Mondiale di Brasile, non esiste per le infrastrutture, non esiste per la logistica e in tanti casi sarà un mondiale scomodo. Sono però sicuro che sarà un mondiale bellissimo. Pierluigi Pardo, ciao. Ciao, beh, il mondiale sarà bellissimo perché è bellissimo il calcio, perché è bellissima la manifestazione, quindi su questo non ci sono molti dubbi, però che sia un casino, detto in maniera poco aulica, già dalla conferenza quest'anno me ne sono accorto. Sì, noi però vogliamo essere ottimisti, perché altrimenti ci deprimiamo. Prima Emiliano Guanella ci ha raccontato la situazione del Brasile a 6 mesi da questo appuntamento, da mettersi le mani nei capelli per chi li ha. Noi però vogliamo essere ottimisti, coinvolgiamo anche Enzo Bucchioni, direttore del QS. Ciao Enzo. Ciao a tutti, ben ritrovati, buon pomeriggio. Vogliamo essere ottimisti perché io penso quella che ci attende, e vi chiedo il vostro conforto, può essere forse una delle più belle edizioni del Mondiale. In tanti partono per vincere, ci sono nazionali giovani, nazionali belle da vedere, c'è un equilibrio che fa ad esempio del Brasile una favorita d'obbligo perché ospita questo Mondiale, ma non necessariamente la squadra favorita. Enzo e poi Pier. Enzo. Ma sì, guarda, il Mondiale in Brasile è qualcosa che va oltre la fantasia, l'immaginazione, cioè è l'essenza del calcio. Se la terra del calcio è il Brasile, giochi mondiali lì, abbiamo detto già tutto, cioè c'è un fascino che nessun altro posto, nessun altro campionato può esprimere. Questo come impatto emotivo lo dice già il fatto che ci sia la corsa a comprare i biglietti a 6 mesi di distanza. Poi dal punto di vista tecnico hai ragione tu, io pensavo l'altro giorno, ogni tanto si fanno questi calcoli, si guardano i gironi, perché anche noi ci stiamo preparando mentalmente, dice chi lo vincerà, ho contato almeno 6 possibili favoriti al titolo e poi anche delle outsider che potrebbero giocare e dire la loro fino in fondo, quindi c'è un equilibrio assoluto, molte squadre giovani, dei campioni straordinari che stanno addirittura crescendo, giovani che poi durante il mondiale sicuramente si metteranno in vetrina, quindi ci aspettiamo, come qualcuno dice con enfasi ma anche forse con realtà, il mondiale più bello della storia, e andiamo poco lontano da questa aspettativa che c'è. Pier, il Brasile è favorito o no? Il Brasile è favorito dopo questa Confederation, nella quale ha dimostrato di essere una squadra pronta e più fresca rispetto ad esempio alla Spagna, che ha umiliato in finale. È chiaro che la Confederation ovviamente è una competizione quasi da champagne, con i suoi fantasmi, con le sue negatività, no? Con le sue scaramanzie, però credo sinceramente che questa Confederation sia stata realmente una grande occasione per il Brasile, inteso come squadra, cioè loro ci tenevano tantissimo, l'hanno affrontata per vincerla e il fatto di averla vinta abbia una grande autostima in vista dell'anno prossimo. Secondo me la vera grande variabile è quella di natura fisica, cioè capire come arriveranno queste due squadre, più tutte le altre, per Germania soprattutto, come arriveremo noi dal punto di vista fisico in Brasile l'anno prossimo. Sì, secondo me c'è anche per il Brasile il peso di capire quanto sapranno sopportare la pressione di un mondiale in casa. In queste settimane abbiamo visto pubblicità che rimandano alla beffa del 1950, che rimandano ad altre beffe subite dalla nazionale brasiliana quando era sulla carta la più forte di tutti. Io credo che il primo ostacolo da superare sia proprio quello, Enzo, per loro, cioè di riuscire a non farsi schiacciare da questa pressione. Sì, questo non c'è dubbio, hai detto bene, però sono altri tempi, questi giocatori oggi sono abituati alle pressioni perché giocano in tutto il mondo, nelle squadre più importanti, sono abituati a competere finali di Champions League o qualsiasi altra manifestazione a livello straordinario. Una volta il calcio era un pochino più naif, è vero che nel 1950 successe quello che successe, ma mi sembra che in generale il Brasile si è più attrezzato anche a sopportare questo tipo di pressione. Poi è una pressione che sappiamo, sì, forte, forte dal punto di vista psicologico, ma anche diversa da quella che devono sopportare i calciatori in Italia, con quanta allegria, con quanta fantasia supportano la loro squadra, i brasiliani, lo sappiamo benissimo. Quindi io la vedo la grandissima favorita, perché poi c'è, non dimentichiamolo, anche un peso politico diverso oggi rispetto a qualche anno fa, perché il calcio è un business assolutamente straordinario, e che il Brasile vinca il mondiale in Brasile sembra una storia quasi scritta. Poi però ci sono le variabili, staremo a vedere, dai. Eppure, Pier, la mia personalissima griglia di partenza a 6 mesi, quindi lo dichiariamo, a 6 mesi dall'inizio del mondiale, vede in pole position la Germania, non il Brasile. Io vedo Germania-Brasile, la Germania non c'era la Confederations, e quindi il Brasile secondo me non ha testato quella che è la sua vera avversaria. Poi l'Argentina, poi la Spagna, poi magari ci sono anche le altre, a partire dall'Olanda o da qualche altra sudamericana, ma un po' staccate. La tua griglia? Io penso che le tre grandi favorite siano Brasile, Spagna e Germania. E poi ci sono altre squadre come l'Argentina, l'Uruguay, l'Olanda, anche noi, che possono far bene, Portogallo, insomma c'è spazio per delle outsider, però io penso che al 70-80% il mondiale lo vince una di quelle tre: Germania, Brasile o Spagna. Sì, c'è da interpretare cos'è la Spagna in questo momento. Mi pare che anche a partire dalla crisi, non tanto dei risultati, ma di gioco del Barcellona, ci sia un momento di involuzione, ci sia un momento di passaggio, ci sia comunque qualcosa che difficilmente non avrà delle ripercussioni anche sulla nazionale spagnola. Pier? Sì, io penso di sì. Insomma, la Spagna ha vinto molto e ci può stare anche un po' di soddisfazione, di pancia piena dopo quello che si è vinto, perché veramente, insomma, ha costruito una tripletta, un triplete veramente, veramente incredibile, con due europei e un mondiale. Però, insomma, io credo che tecnicamente parlando sia ancora una squadra a livelli altissimi, sia forse la squadra più forte ancora che c'è in giro per il mondo. Poi, sai, il mondiale è legato comunque a degli episodi. Io non mi dimentico il fatto che nel 2010 la Spagna stava rischiando di uscire contro il Portogallo, che nel 2012 all'Europeo ha rischiato sempre contro il Portogallo tantissimo in semifinale, che noi abbiamo vinto un mondiale in finale con la Francia, quando forse la Francia nei 120 minuti aveva fatto più di noi, che invece dovevamo vincere a Rotterdam 2 anni prima all'Europeo, cioè 2 anni prima, 6 anni prima all'Europeo. Cioè il calcio ha delle sue logiche in questo tipo di manifestazioni, nelle coppe, nella Champions, nelle coppe con la partita eliminazione diretta molto, molto liquide, molto leggere, dove veramente la differenza fra esito e fracasso, come direbbero gli spagnoli, fra successo e fallimento, delle volte è veramente appesa al destino, a un ciuffo d'erba, a una deviazione, a una questione di centimetri, come diceva il presidente Viola negli anni 80. Quindi secondo me siamo veramente, le distanze sono minime, però quelle tre sono le squadre sono le più forti, e la Spagna tecnicamente secondo me è ancora la migliore. Questo mondiale, Enzo, è l'ultima chiamata ad altissimo livello, non l'ultimo mondiale, è l'ultima chiamata ad altissimo livello di Leo Messi? Più o meno Maradona aveva quest'età nel 1986, insomma, o porta l'Argentina là come ha fatto Diego questa volta, oppure io credo sulla sua carriera, seppure straordinaria, resterà sempre un'ombra. Probabilmente resterà. Io non sono ottimista perché possa fare per lui, che possa fare questo tipo di percorso, perché è un giocatore, lo sappiamo, assolutamente straordinario. Per me, per il senso del gol che ha, per la rapidità con la quale gioca, ora non voglio dire un'eresia, ma è il più forte della storia, perché a questa velocità non giocava né Pelé né Maradona, e la velocità di esecuzione sua conta. Vabbè, al di là di questo distinguo, di questa discussione, possiamo parlarne per dei mesi, non ha, secondo me, Messi la capacità psicologica, il carisma per poter prendere sulle spalle una squadra e vincere da solo. Quello che faceva Maradona quando si metteva in testa di fare un gol, lo faceva. Messi ha sempre avuto alle spalle una grandissima squadra, che è il Barcellona, che l'ha aiutato in questo suo percorso, che l'ha supportato anche dal punto di vista fisico, che quel fisico che non ha, l'ha messo in condizione di esprimere tutta questa sua grandissima qualità. L'Argentina queste cose non l'ha mai fatte, e lì ha pagato. A volte Messi c'è, a volte non c'è, secondo il suo stato di forma, secondo le situazioni di gioco, però che lui sia in grado di diventare l'uomo squadra, io ho ancora dei forti dubbi. Sì, e questo, Pier, è l'ultima chiamata? Ma è l'ultima chiamata, ma mai dire mai. L'ultima chiamata con la storia, in questo senso. È una grande occasione, poi c'è questa storia appunto su Messi che non riesce a essere decisivo in nazionale, che non riesce a essere il migliore della storia, il partito dei maradoniani perché non ha vinto con la nazionale, è un argomento che ha qualche elemento di verità, insomma, è un argomento suggestivo, è difficile dire di no. Anche se parli adesso ha avuto una carriera eccezionale, ma in una squadra eccezionale, quindi gli manca secondo me un po' questa controprova. Sì, c'è qualche problema a recuperare Pierre, ci sei? Pronto. Ecco, eri sparito. È incredibile perché ero... Fermo, capita, no, sai, le linee telefoniche. Chiudiamo il discorso che poi ti saluto. Sì, che appunto l'argomento ha un suo valore, ha una sua veridicità. Cioè, è chiaro che rispetto a Maradona, cioè Maradona è stato un giocatore capace di vincere in squadre anche alternative, è stato un giocatore capace di far crescere il Napoli tantissimo, un giocatore capace di vincere con la nazionale. Questa cosa a Messi manca, quindi è una grande occasione, secondo me è un discorso più mediatico che altro. Messi... Sì, ma è l'ultima occasione, la sente anche lui, anche tutto quello che sta passando in questi mesi tra infortuni e voglia di riposarsi, secondo me riporta lì. Grazie ad Enzo Bucchioni. Grazie a voi, a presto, ciao a tutti. 7-23 febbraio, il mondo si ferma, il mondo guarda a Sochi dove ci sono i giochi invernali. E io non so con che speranze partiamo, ma lo chiediamo a Gianmario Bonzi, telecronista sport invernali, che a Sochi ci sarà per Sky Sport. Ciao Gianmario, buon pomeriggio. Buon pomeriggio a te e a tutti gli ascoltatori. Partiamo da 5, il medagliere di Vancouver, un oro, un argento, 3 bronzi. Con che speranze partiamo? Con le speranze che ha annunciato anche il presidente del CONI, ovvero cercare di fare meglio. È possibile arrivare a un bottino di 8-10 medaglie, cerchiamo di essere un po' ottimisti. Comunque sì, è possibile fare meglio, anche perché Vancouver non era andata benissimo, se vogliamo essere critici. No, sinceramente no, ci si aspettava di più. È possibile fare meglio perché rispetto a Vancouver c'è una squadra di snowboard border cross che non c'era così forte a Vancouver, perché c'è una squadra di slittino che è tornata ad altissimo livello, non solo con Zögler, perché c'è una squadra fortissima di sci alpino maschile. Abbiamo il miglior discesista del momento, che è Dominic Paris, il che non significa che vincerà, ma sicuramente che può fare bene. Saranno Olimpiadi particolari. Io leggevo un tuo interessantissimo articolo su internet delle scorse settimane. Attenzione, perché saranno Olimpiadi con condizioni difficili, prima di tutto dal punto di vista atmosferico, e quindi che potranno regalare anche solo per questo molte sorprese. Proviamo a capire. Esattamente, diciamo che saranno Olimpiadi un po' simili a Vancouver, anche se noi speriamo che vada tutto bene. Perché? Perché Sochi è posizionata vicino al Mar Nero, e quindi l'umidità del mare potrebbe portare a una neve molle, questo soprattutto per lo sci alpino, ma poi c'è il problema nebbia, quindi potremmo assistere a molti rinvii di gare. Tutto questo è capitato per esempio con le preolimpiche di Sochi nello sci alpino al femminile, quindi neve molle, difficile su cui gareggiare, ma soprattutto nebbia, rinvii. Per esempio 2 anni fa si sono tenute le prove preolimpiche nello sci alpino femminile, ma la discesa non è stata disputata per questioni di nebbia. I maschi sono stati invece fortunati, una settimana prima, 2 anni fa, hanno potuto disputare tutte le prove. Quindi diciamo che può succedere di tutto, nel bene e nel male, però il problema c'è sicuramente. Ci sono problemi di innevamento, di quantità di neve, o Sochi da questo punto di vista è una sede che dà garanzie? Ma da questo punto di vista dovrebbero esserci garanzie. In ogni caso, come sapete, ormai da parecchi decenni a questa parte... Sì, nessuno può prevederlo. Sì. No, nessuno può prevederlo, però da questo punto di vista diciamo che sono tutti fiduciosi. C'è già neve a questo punto della stagione, per cui quello non dovrebbe essere un problema. Il problema sarà che tipo di neve troveranno gli atleti. Quindi possiamo dire che è possibile che possano esserci anche valori alterati, valori sportivi da questo punto di vista, cioè che chi magari è stato il migliore per tutta la stagione possa non riuscire a ripetersi a Sochi, viceversa che ci sia spazio per degli outsider. Allora, questo è un classico delle Olimpiadi invernali, perché ovviamente sono sport che si disputano quasi tutti all'aperto, per cui succederà in ogni caso. È chiaro che se ci sono problemi di questo tipo può succedere a maggior ragione. Anche a Vancouver è capitato e potrebbe capitare anche a Sochi, indubbiamente, perché ci può essere l'atleta dello sci alpino che scende con il sole per quel momento lì, gli altri si trovano la nebbia, e se quello che scende con il sole è un outsider, magari vince lui. Mm. Però questa è una situazione un po' tipica delle Olimpiadi invernali, che si può verificare anche al di là delle condizioni della neve e del tempo. Così come è tipico delle Olimpiadi invernali che magari in tanti ci siano arrivati nascondendosi per la prima parte della stagione, perché hanno calibrato la preparazione per le Olimpiadi, perché hanno destinato i budget per la preparazione dei giochi, magari dimenticandosi il resto degli appuntamenti. Da questo punto di vista, secondo te che cosa hanno detto queste prime settimane? Vale per lo sci alpino, ma non solo. Dunque, qui si possono fare due tipi di considerazioni. Da una parte, per esempio, prendo alcuni biatleti norvegesi che stanno saltando, salteranno alcune gare di Coppa del Mondo per prepararsi meglio alle Olimpiadi. Da una parte ci sono delle squadre che utilizzano questa strategia. Dall'altra, però, vi faccio l'esempio dell'Italia. Cioè, bisogna per forza andare bene, parlo dello sci alpino, in Coppa del Mondo, perché altrimenti non ti qualifichi, non ti portano se arrivi 27esimo, devi entrare nei primi 10 per qualificarti, o con i maschi addirittura nei primi 8 fare un podio, perché in alcune discipline abbiamo 5 azzurri forti e ne possono andare solo 4 per nazioni alle Olimpiadi. Quindi in realtà bisogna cercare di andare forte fin da subito, primo per qualificarsi e secondo perché l'Italia storicamente sì, ha avuto delle sorprese, ma va bene se arriva con dei risultati, cioè magari se ha anche pressione, ma anche la fiducia che deriva da ottimi piazzamenti nel tutte le gare pre-olimpiche. Diciamo che le gare di questo periodo e di gennaio saranno fondamentali da questo punto di vista. Quindi ci sono squadre che utilizzano questa tattica, l'Italia mi sembra che non la stia utilizzando perché bisogna qualificarsi. Ecco, e allora, visto che non viene utilizzata questa tattica, proviamo un po' a fare la radiografia di chi portiamo a Sochi, di quali sono le nostre speranze da medaglie, di quali sono gli uomini su cui puntiamo. Ti riporto un discorso fatto da Mario Cotelli: nella velocità dello sci alpino, soprattutto stiamo parlando dello sci alpino maschile, andiamo bene, però attenzione, noi andiamo bene perché non c'è praticamente concorrenza, a causa crisi in tanti stanno mollando queste specialità e quindi è più semplice essere più veloci, anche se Paris resta un ottimo talento. Cosa si può condividere di questo discorso e qual è la situazione? Si può condividere il fatto che abbiamo una grande squadra, indubbiamente lo scorso anno su 8 discese 5 sono state vinte dall'Italia, non è mai capitato dal 1967, cioè da quando esiste la Coppa del Mondo di sci. Indubbiamente l'Austria di Mayer, Hermann Mayer, di Eberharter, di Knaus, di Schifferer, eccetera, eccetera, non c'è più. C'è un'Austria ancora forte con Kroll, per esempio, ed altri con Schweitzberger, ma non c'è lo squadrone austriaco di fine anni 90, inizio anni 2000. Questo è vero. Però dall'altra parte bisogna dire che abbiamo un campione che, a detta di Christian Gedina, che ha vinto 12 discese in Coppa del Mondo e 3 medaglie mondiali, vincerà più di lui, che è Dominic Paris, ma non c'è solo lui, c'è Innerhofer, c'è Phil che è andato sul podio 2 volte in discesa Super G 2 settimane fa, e poi c'è Massaglia e Hell. Quindi dal punto di vista della squadra di velocità maschile c'è una garanzia, cioè la squadra è forte, poi alle Olimpiadi vincere o meno dipende anche da mille fattori, indubbiamente arriviamo da favoriti. Paris può essere l'uomo copertina della nostra spedizione? Paris può essere l'uomo copertina perché lo sci alpino è la specialità più diffusa in Italia. In realtà segnatevi il nome di Michela Moglioli, perché c'è uno sport che non è molto seguito ai noi, ahimè, ma in cui siamo fortissimi, che è il border cross, quindi lo snowboard cross, dove siamo straordinari perché abbiamo più interpreti che possono vincere. Tra questi c'è Michela Moglioli, che ha 18 anni, che lo scorso anno è esordito a 17 in Coppa del Mondo, ha vinto 2 gare, tra cui quella preolimpica di Sochi. Quindi Paris è il nome più conosciuto perché è sci alpino non solo maschile ma è discesa libera, ovviamente, no? Una delle gare più famose. Sì, è un po' la cartolina delle Olimpiadi per lo sci alpino. Michela Moglioli, ce lo segniamo, snowboard cross. Andiamo un po' meno bene alle discipline tecniche dello sci e allarghiamo anche il discorso alle donne. Che speranze abbiamo? Allora, le donne si sono un po' risvegliate in questa stagione. Intanto abbiamo recuperato quasi tutte le infortunate, anche se si è fatta male e salterà alle Olimpiadi la 21enne Sofia Goggia per un infortunio al ginocchio, che era la nostra giovane più interessante. Però attenzione, Elena Fanchini ha ottenuto 2 podi in discesa libera in una settimana dopo 8 anni di sonno, come ha detto lei, e la pista di Sochi può essere interessante per le sue caratteristiche. In gigante stiamo recuperando Federica Brignone, al momento attuale si punta sugli uomini, però attenzione a quello che succede a gennaio, perché se arrivano altri podi o dovesse arrivare anche una vittoria con le donne, allora pure loro potrebbero dire la loro nello sci alpino. Poi ci sono slittino e short track, che sono le altre specialità dove possiamo sicuramente andare a medaglia, con Arianna Fontana, con la squadra femminile di short track e con Fischnaller, e l'ennesimo fenomeno dello slittino che ha appena vinto la sua 56esima gara in Coppa del Mondo e che sarà il nostro portabandieri alle Olimpiadi. Ovviamente sto parlando di Armin Zöbler, 101 podi in Coppa del Mondo. Sì, due ori, un argento, due bronzi nelle ultime 5 Olimpiadi. Io credo si possa serenamente dire che siamo al saluto, anche se con Zöbler è difficile poi avere conferma di questo. Tu che lo conosci meglio. Ha lasciato aperto la porta anche per il post addirittura Olimpiadi di Sochi, nel senso che ha detto: al momento sto bene, mi sento competitivo, ovviamente ragiono di anno in anno, però non ha mai parlato di ritiro, sinceramente. Dipenderà molto anche da come andrà a Sochi. È stato quarto lo scorso anno nelle preolimpiche, però la pista gli piace, vediamo come andrà. Se dovesse vincere un'altra medaglia invece che ritirarsi, come potrebbero pensare molti, magari va avanti ancora. Del fondo azzurro, che una volta era una miniera e si è un po' perso per strada, abbiamo notizie? Sì, abbiamo notizie fortunatamente grazie all'ultima prova di Davos, proprio ultimo weekend, dove c'è stato il quarto posto di Roland Clara nella 20 km tecnica libera, un minimo di ossigeno, e poi quantomeno la finale di Pellegrino nella sprint, è arrivato ultimo, sesto dei finalisti. Diciamo che quantomeno a livello maschile abbiamo rialzato la testa, al momento attuale è dura pensare di vincere medaglie. Nel fondo è chiaro che stiamo ragionando adesso a metà dicembre, per cui magari se volete ci risentiamo a metà gennaio e facciamo un punto ulteriore, perché sì, c'è da capire che cosa fare. C'è da capire che cosa è successo al fondo italiano, ci sono problemi di talenti, di budget, di programmazione, però è evidente che è destinato, almeno di sorprese clamorose, a non recitare più il ruolo che storicamente ha recitato nei nostri giochi invernali. Perché? Allora, dal punto di vista femminile abbiamo delle ragazze giovani, c'è stato un vuoto generazionale, qui bisognerebbe capire il motivo. Evidentemente non si è investito molto sul post Follis e Longa, che si sono ritirati 2 anni fa e loro hanno vinto medaglie mondiali e olimpiche, anche ori. A livello maschile abbiamo invece una squadra, a parte Pellegrino e pochi altri, ancora un po' anziana, in cui le punte sono ancora anziane o anzianotte. C'è ancora Dicenta, che è ultra quarantenne ed è ancora competitivo, per cui evidentemente non si è investito sui giovani negli anni d'oro, che sono tutti gli anni 90 e anche fino a metà degli anni 2000, fino a Torino 2006, indubbiamente, sì. Dove la squadra però era anziana. Sì. C'è qualcosa d'oro da ricostruire al di là di quelli che saranno i risultati di Sochi di quelle 2 settimane. Credo che abbiamo dimenticato un ultimo nome di quelli che fanno titolo, che fanno copertina in Italia, che andranno, io spero, a giocarsi questa Olimpiade. Stiamo parlando di Carolina Kostner. Che è il volto bello, pulito, poi tutte le altre vicende di cui si può anche fare a meno di parlare, ma che evidentemente hanno inciso nella sua vita personale e sportiva degli ultimi anni. Di Carolina che cosa possiamo dire? Allora, possiamo dire che da 3 anni è nel momento migliore della sua carriera. Ha vinto l'oro mondiale, prima italiano della storia, nel 2012, lo scorso anno argento, ma forse con la sua esibizione migliore in assoluto dietro l'inarrivabile Yuna Kim, la coreana. Purtroppo in questo inizio di stagione ha avuto problemi alla schiena, ha fatto le solite 2 tappe del Grand Prix, ottenendo 2 podi, 2 secondi posti, non si è qualificata alla finale per 68 centesimi di punto, però è chiaro che è al top della carriera, quindi questa è la sua ultima grande occasione olimpica, anche perché poi arriveranno le russe che hanno tra i 14 e i 18 anni adesso e che sono fortissime, forse ancora non mature per vincere, ma il prossimo quadriennio e forse anche di più sarà il loro. Sì, poi Carolina ha 26 anni, difficile pensare che possa proiettarsi sul 2018. No, questa è la sua chance olimpica, non c'è dubbio, però ci sono 2 avversarie fortissime, oltre a tutte queste giovani russe, che sono Mao Asada, che ha appena vinto il Grand Prix per la 4ª volta, Yuna Kim, coreana, problemi fisici anche lei enormi, ha saltato il Grand Prix ma sta tornando. Ora, se Yuna Kim è al top con il programma che ha, vince lei. Dimmi un numero, quante medaglie portiamo a casa? 8, almeno 8. Proviamo a guardare nella palla di vetro. 8 medaglie da Sochi, questo è il pronostico di Gianmario Bonzi, telecronista, sarà lì per Sky Sport. Grazie Gianmario. Grazie a voi. Non c'è solo l'aspetto sportivo quando si parla dei giochi di Sochi, lo ricordiamo, 7-23 febbraio, che saranno il centro dello sport mondiale nella prima parte di questo anno, in attesa poi dei mondiali di calcio di Brasile tra giugno e luglio. Non c'è solo lo sport, dicevamo, c'è anche altro, c'è anche una marcia di avvicinamento che ha portato molte polemiche, molti dubbi, molte perplessità, forse anche molte possibilità di sviluppo. Lo chiediamo a Nicola Lombardozzi, collega di Repubblica. Buon pomeriggio Nicola. Buongiorno. Che cos'è Sochi dal punto di vista della macchina organizzativa che si è mossa e che è arrivata quasi a compimento? Un'occasione o sono più le zone d'ombra, i lati oscuri? No, sicuramente per la Russia rappresenta un'occasione e per Vladimir Putin rappresenta una importantissima scommessa personale. E poi la macchina organizzativa ha funzionato, diciamo, come funzionano abitualmente in Russia, quindi con una voragine di denaro sparito perché incassato da chi non doveva incassarlo, lentezze dal punto di vista del progetto e la solita corsa che probabilmente sarà risolta in estremis il 7 febbraio, le Olimpiadi partiranno certamente, ma insomma fino alla fine c'è ancora qualcosa da sistemare, ma non c'è solo appunto un problema logistico, quello pensiamo che si dovrebbe risolvere, ma è l'altro, che è quello politico, perché Putin si giocava molto su queste Olimpiadi e adesso sta cominciando a vedere tutte le controindicazioni. Sì, ma saranno Olimpiadi che sono destinate a diventare un po' una vetrina per Putin, questo ovviamente porta delle controindicazioni, ci sono anche nazioni che manderanno delegazioni di politici ridotte, perché poi c'è il problema del rispetto dei diritti umani, di tutte le polemiche che abbiamo vissuto in questi mesi, ma dobbiamo aspettarci 2 settimane di propaganda, di vetrina? Assolutamente sì, dobbiamo aspettarci 2 settimane di propaganda, ma lasciami dire, di propaganda da una parte e dall'altra, nel senso che anche, diciamo, i cosiddetti avversari politici che capiteranno dagli Stati Uniti, ovviamente quello che qui chiamano genericamente l'Occidente, diciamo che non si fa mancare la propaganda, nel senso che si è deciso di fare delle clamorose defezioni, sapete, quella del presidente Hollande, il presidente Obama probabilmente non andrà nemmeno lui, basate sul fatto della mancanza dei diritti umani, assenza dei diritti umani che forse andava considerata prima di assegnare a Putin le Olimpiadi invernali. E soprattutto ricordatevi sempre che queste Olimpiadi invernali fanno da antipasto succulento per i mondiali di calcio del 2018. Sì, non l'abbiamo scoperto certo quest'estate, quest'inverno, che potevano esserci aspetti discutibili. Siamo un po' tornati indietro, con il dovuto rispetto, nel fare un parallelismo che non è semplice da portare fino in fondo, però siamo un po' tornati ai tempi della guerra fredda, almeno dal punto di vista della comunicazione. Sì, qui devo dire le defezioni olimpiche, l'eccesso di critica, come dicono qui, sicuramente sta ricordando le Olimpiadi del 1980, quelle del clamoroso boicottaggio americano, 65 paesi non parteciparono alle uniche Olimpiadi che si svolsero in territorio sovietico. Bisogna dire che lì si trattò comunque dell'invasione dell'Afghanistan da parte sovietica, che aveva abbastanza colto di sorpresa gli altri. Qui di scoprire che Putin ha messo delle leggi contro la propaganda gay o che manda in galera tutti quelli che provano a fare delle manifestazioni di piazza, scoprirlo adesso, devo dire, per chi vive a Mosca mi sembra piuttosto tardivo, visto che negli ultimi 3 anni ben poco è stato fatto per difendere, faccio dei nomi a caso, il gruppo delle ragazzine della Pussy Riot o le varie manifestazioni in cui i gay sono stati estratti a sangue dalla polizia perché chiedevano di poter fare un gay pride. Sì, intanto mi pare di aver capito, leggendo qua e là, che le Olimpiadi di Sochi sono già da record, saranno le Olimpiadi più costose della storia, più ancora di quelle cinesi di Pechino del 2008, ed era un record che sembrava difficile da battere. Quanto costano esattamente? Guarda, l'ultima cifra, ma non ci crede nessuno perché sono tutte un po' al ribasso ormai, parlava di oltre 65 milioni di euro. Quello che c'è da dire è che però che più della metà di questo denaro non si vede negli impianti e nelle realizzazioni che sono state fatte, nel senso che è stato dilapidato da tutta quella serie di intermediari che stanno fra il Cremlino, che gestisce tutti i progetti, anche i più piccoli, e gli esecutori materiali, che sono quasi sempre dei eserciti di lavoratori che vengono dall'ex Unione Sovietica, pagati in nero e pagati poco e costretti a lavorare anche oltre 20 ore al giorno. e tutto è stato speso, ci sono stati degli arresti, dei licenziamenti clamorosi, ma insomma il risultato della corruzione dilagante in questo paese, in Russia intendo, è sempre più sotto gli occhi di tutti. Sì, a poco più di un mese dalle Olimpiadi, Sochi è una città diversa rispetto a quello che era, è una città migliore? La città probabilmente sarà migliore quando tutti saranno andati via, per ora non diteglielo agli abitanti che sono inferociti. Vi vorrei spiegare, Sochi è una città che non ha assolutamente nessun senso per ospitare le Olimpiadi invernali. È una città sul mare, sul Mar Nero, con un clima relativamente mito, potrebbe essere più o meno quello di Palermo per intenderci, dove non nevica quasi mai, nevica sulle montagne che stanno sopra, che circondano la città, e nevica neanche tanto che gran parte della spesa, come si è già letto sui giornali, è stata quella di realizzare degli avveniristici silos nei quali è custodita tutta la neve che è caduta negli ultimi 2 anni e che sta lì pronta a essere utilizzata nel caso molto probabile che non cada neanche un fiocco di neve in febbraio. Una pretesa appunto che aveva soprattutto un colpo d'immagine, l'idea di Putin, un'idea tutta sua di voler fare le Olimpiadi sul mare, in una località evidentemente certamente suggestiva, ma anche in una regione più pericolosa del pianeta dal punto di vista terroristico, per esempio. Sì, e questo porta a un'altra parte delle contraddizioni che accompagnano questa Olimpiade invernale di Sochi. Siamo in una delle aree più a rischio. Lo sport l'ha conosciuta recentemente anche per alcune vicende calcistiche che l'hanno portata alla ribalta. Anche qui c'è un intreccio che rappresenta una zona grigia in cui è difficile distinguere esattamente qual è il senso di alcune scelte. Tu le conosci bene, ce l'hai già raccontate parlando dell'ANCI e della sua parabola, più o meno siamo lì. Sì, assolutamente, bisogna assolutamente dire al mondo e anche ai russi che nel Caucaso tutto è pace. In realtà il Caucaso, quella penisola che compone tutte quelle repubbliche sovietiche, ex sovietiche, adesso repubbliche della Federazione Russa, che chiedono l'indipendenza, dove c'è uno strapotere degli integralisti islamici e dove ci sono delle forze che sono le eredi materiali di quello che è stato Al-Qaeda, quella zona non è assolutamente tranquilla. Qui c'è, da quelle non a Sochi, ma nel raggio di poche centinaia di chilometri da Sochi, si può fare un bilancio di attentati con una cinquantina di morti al mese. Tanto per migliorare la situazione dal punto di vista della tensione, uno dei grandi capi del terrorismo che si è autoproclamato emiro del Caucaso ha appunto dichiarato più volte che la Russia pagherà con il sangue questa sfida, eccetera, eccetera. Quindi esistono dei problemi di terrorismo, rischio per l'ordine pubblico, i costi credo siano cresciuti, anche come avviene per tradizione purtroppo nell'ultimo ventennio delle Olimpiadi, anche e soprattutto per le misure di sicurezza che via via vengono chieste, ecco, per adeguare le sedi. Direi che il vero incubo per chi deve andare a Sochi, parlo di atleti, giornalisti e tifosi, che vedrete non saranno poi tanti, è appunto questo incrocio perverso fra il pericolo vero e proprio che ci possano essere delle azioni terroristiche, visto che appunto siamo nel classico sistema di integralismo terroristico con il grande uso di terroristi kamikaze, cioè è abbastanza imparabile da un punto di vista. E poi l'intreccio della, permettetemi, diciamo in qualche modo ottusa sistema, ottusa politica di sicurezza russa, per cui è già stato comunicato a tutti i giornalisti, a tutti gli atleti, a tutti i tifosi che tutte le loro poste elettroniche, i loro sms verranno controllati, che i loro movimenti saranno controllati, che i loro telefoni saranno controllati. Ecco, questo non è accettato con facilità da tutti, cioè ci sarà un misto di scomodità, la paura generica che qualcosa possa accadere e la prevaricazione è potente nella vita privata di queste 2 settimane da parte dei mezzi, dei sistemi di sicurezza. Sì, in tutto questo mi sembra che, ne abbiamo accennato prima, il tema del rispetto dei diritti umani, seppure prioritario, però in tutto questo resta quasi sullo sfondo, visto il quadro che stiamo delineando, che ci porta a Sochi, dove, ripeto, per 2 settimane il mondo si fermerà per guardare, perché comunque i giochi anche invernali rimangono una vetrina che interessa a livello planetario miliardi di persone, però mi sembra un quadro in cui probabilmente a tornare indietro difficilmente il CIO avrebbe accettato nuovamente questo tipo di scelta. Ma questo sinceramente non te lo so dire, perché devo dire le politiche del CIO non è che siano sempre molto coraggiose, insomma, non è che abbiano fatto molto. Beh, c'erano delle alternative. C'erano delle alternative. Sì, le alternative c'erano senz'altro, quello sì. Però per dirti, nel mese di luglio ci siamo ritrovati noi giornalisti di nuovo a scrivere e a dire al mondo che qui, per esempio, c'è una forte discriminazione contro gli omosessuali, perché ci sono stati i campionati mondiali di atletica pre-antipasto ai mondiali di calcio, sono stati ad agosto, e un bacio affettuoso fra due atlete russe è stato scambiato con un segno di protesta. Non si trattava di un segno di protesta, è stato un bacio puramente fortuito, ma è stata l'unica cosa che lo sport ha fatto di concreto per protestare contro un certo modo di comportarsi da parte del governo russo. Per chiudere, ho letto che la torcia si è spenta più volte, in tanti hanno letto questo come presagio infausto, o conferma comunque delle tante difficoltà che ci sono legate a social. Presagio infausto è probabile, si è spenta già 44 volte, la prima in maniera piuttosto mortificante proprio mentre filava sotto le mura del Cremlino. Questa è una cosa che ha indispettito molti e che sta alimentando ovviamente le ironie dell'opposizione sul web. La fiaccola, che è un prodotto di alta ingegneria russa, è stata sbandierata in televisione come un capolavoro tecnologico, in realtà non regge il vento e si spegne, e succede spesso. Non è niente di grave dal punto di vista pratico, ma certo non fa una bella impressione. No, assolutamente, e siccome lo abbiamo detto, queste sono Olimpiadi che saranno molto soprattutto apparenza, è evidente che anche questo diventa un piccolo tassello di un racconto che abbiamo fatto, che faremo ancora da qui al 7 febbraio, lo ricordiamo, Olimpiadi di Sochi dal 7 al 23 febbraio. Grazie a Nicola Lombardozzi di Repubblica, grazie Nicola. Noi ci fermiamo qui, io ringrazio ancora Franco Piantanida e Roby Scaltritti. L'appuntamento con tutti i convocati è per domani a partire dalle 14. Un saluto da Giovanni Capuano.